felice cadeva nel pozzo e sentiva il suo uomo sopra di sé. Lui con le mani la carezzava, spingendola sempre più giù. Alice è fatta d'immagini, madre puttana o vergine, si sente un corpo per uomini, mentre lui grida, sei solo mia, Alice, sei mia. Alice è persa in un incubo, si sente accanto un estraneo, s'accorge adesso che è inutile, l'amore è fatto per lui. Nel buio cerca di muoversi, ha tanta voglia di esistere, l'uomo vorrebbe riprenderla e grida ancora, sei solo mia, ma lì. Alice si guarda allo specchio, non vede il suo corpo davanti a sé, vede soltanto l'immagine che gli altri hanno di lei. Alice rompe lo specchio per ritrovare la sua realtà, scopre di amare il suo corpo, lo tocca e dice, sei solo tua, Alice.